Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. La New Bethel Baptist Church di Detroit, nel Michigan, è affollatissima, come sempre. Oggi è una normale domenica di primavera del 1957 e, come al solito, i fedeli sono raccolti nell'immensa grandiosità della costruzione sacra. Non dobbiamo pensare a una delle nostre chiese. Questa parrocchia ha circa 5.000 fedeli. E se anche in questo momento non ci sono proprio tutti, l'assembramento è davvero impressionante. E tutti stanno ascoltando in silenzio quella che definiscono la voce di Dio. È una ragazzina di 15 anni quella che sta cantando, si potrebbe dire una bambina. Ma tutto in lei denota una maturità da persona più adulta. Non si può suonare il pianoforte in quella maniera a soli 15 anni. Non si può cantare con tanta abilità senza avere alle spalle anni e anni di esperienza, di studi, di lezioni. Non si può avere quella presenza scenica da consumata diva dello Star System se si è solo una ragazzina. Non si potrà, ma lei tutte queste cose le fa, in maniera strabiliante. Cantavo sempre Precious Lord Take My Hands perché a mio padre piaceva moltissimo e me la chiedeva ogni domenica, adorava quella canzone, la cantavo sempre in chiesa. Forse basta dire il nome di questa ragazzina prodigiosa per far sì che nessuno di noi si stupisca più di niente. Quella che sta cantando è una giovanissima Aretha Franklin. Aretha Franklin, un mito, una leggenda vivente, forse la cantante più premiata al mondo, con ben 18 Grammy Award, di cui 8 consecutivi. Tanto che in quel periodo il Grammy viene ribattezzato Aretha Award, perché lo vince sempre lei. È la prima donna ad essere ammessa alla Rock and Roll Hall of Fame. La chiamano The Queen of Soul, la regina incontrastata di un genere che nasce dal rhythm and blues e dal gospel, proprio in chiese come quella in cui inizia a cantare da bambina. Che poi tanto bambina non è. A 15 anni Aretha ha già 2 figli. Il primo ha avuto addirittura 13. Io sono cresciuta in fretta. A 12 anni ero una donna fatta. Avevo anche le idee molto chiare su quello che volevo fare nella vita. Sposarmi al più presto, avere la mia famiglia. Fu mio padre a farmi cambiare idea. Il padre del quale parla Aretha è il reverendo Clarence Lavon Franklin, pastore battista della Chiesa Nera itinerante che da Memphis, nel Tennessee, dove mette su famiglia e dove nascono Aretha e i suoi fratelli e sorelle, si sposta poi a Buffalo, nello stato di New York, e infine a Detroit, nel Michigan. Qui il reverendo C.L. Franklin, come tutti lo chiamano, fonda la sua chiesa personale, la New Bethel Baptist Church, ed è il primo ministro religioso americano a registrare i suoi sermoni su disco e a venderli in tutto il paese. Amico intimo di Martin Luther King, che supporta nelle sue lotte per i diritti civili dei neri, il reverendo Franklin conosce moltissimi cantanti di gospel famosi che invita nella sua chiesa. Sam Cooke, Jackie Wilson, Clara Ward, Albertina Walker e la mitica Mahalia Jackson, che cantano spesso per lui. Aretha cresce in questa atmosfera. Io non ci pensavo affatto a fare la cantante, ma mio padre mi disse che ero stata benedetta dal Signore con una dote incredibile perché suonavo il pianoforte a meraviglia senza aver mai preso una lezione. E cantavo con la voce di Dio. Tutti quei suoi amici musicisti e grandi cantanti mi dicevano lo stesso. Allora cominciai a pensare che forse era vero. Ha solo 14 anni quando il padre decide di registrarla mentre canta. Nasce così, in chiesa, il primo album di Aretha Franklin, Songs of Faith, che viene prodotto dalla casa discografica JVB Battle nel 1956. I have a Dopo un paio d'anni che Aretha ha pubblicato il suo primo album Songs of Faith, il suo successo è discreto, ma lei ha in mente altro. Le piacerebbe cambiare genere musicale. Le piace specialmente il pop. Suo padre è un uomo di larghe vedute. Anche se era un ministro religioso, mio padre ci faceva ascoltare tutti i tipi di musica, senza preclusioni. E quando io e le mie sorelle, Emma e Caroline, che cantavano anche loro, decidemmo che volevamo provare altri generi. Lui ci aiutò in tutti i modi. Il reverendo Franklin sa che per Aretha ci vuole una casa discografica seria se vuole sfondare. Sa che solo con il giusto supporto tutte le doti così incredibili di sua figlia possono essere esaltate per portarla al successo che merita. Ecco perché sta prendendo accordi con la Columbia Records. Without a word of warning, the blues walked in this morning. Nonostante la Columbia abbia tutte le caratteristiche giuste, Today I Sing the Blues e il successivo album Aretha non ottengono il successo sperato. Si posizionano intorno al 10° posto nelle classifiche dei dischi più venduti. Non male, potrebbe essere considerato un buon inizio per una principiante, ma non per una come Aretha. Lei è troppo brava, troppo dotata per non arrivare al top delle classifiche. Ci deve essere qualcosa che non va. E infatti lei lo sa benissimo che cos'è che non va. John Hammond, CEO della Columbia, era convinto che io potessi diventare la nuova Billie Holiday. Ma io non avevo quell'anima jazz. Per un po' feci a modo suo, ma poi a un certo punto vidi che non raggiungevo il successo che avrei dovuto. E così presi in mano la mia vita e decisi da me. Aretha cambia casa discografica. Si rivolge all'Atlantic Records, l'etichetta top di musica rhythm and blues nera. Sicuramente loro sapranno come tirar fuori la sua anima gospel, le sue origini soul. Mentre firma il suo contratto nel 1966, Aretha, in cuor suo, spera che di lì a massimo un anno tutta l'America possa conoscere il suo nome. Il singolo I Never Loved a Man The Way I Love You e il suo lato B, Do Right Woman, Do Right Man, esce nel febbraio del 1967 ed è considerato il vero primo successo di Aretha Franklin. Il 45 giri resta al primo posto delle classifiche per alcune settimane. La cantante ha solo 25 anni e in questo momento può considerarsi un'interprete nera di rhythm and blues di grande successo. Ecco, adesso sì che le cose si stanno mettendo bene e lei incomincia a sentirsi soddisfatta. Ma qualcosa di incredibile sta per accadere. Un magnifico destino sta per incrociare la sua vita. I've been loving you too long to stop now. La voce che stiamo ascoltando è quella di uno dei più grandi cantanti soul di tutti i tempi, Otis Redding, un cantante e compositore che rappresenta per Aretha Franklin una figura determinante nell'evoluzione della sua incredibile carriera artistica, un vero magnifico destino. Una delle maggiori figure del soul e del rhythm and blues, Otis Redding, nella sua brevissima carriera, stroncata purtroppo da un terribile incidente aereo quando ha solo 26 anni, produce una serie di canzoni che sono vere pietre miliari, come I've Been Loving You Too Long o come l'altrettanto grandissimo successo When a Man Loves a Woman. Nel 1965 Redding scrive una canzone sull'onda della divertente battuta del suo percussionista Al Jackson. Dopo un lungo e pesante tour, Otis si sta lamentando della vita che conduce e Al gli risponde per le rime. Di che ti lamenti? Stai sempre in giro. Tutto quello che devi pretendere a casa quando ritorni è solo un po' di rispetto, eh? Alla base di molte canzoni di rhythm and blues nere ci sono battute del genere, un po' allusive e con evidenti riferimenti sessuali. Otis ride divertito alla battuta di Jackson e solo qualche giorno dopo scrive Respect. What you want, Un uomo disperato dichiara che darà alla propria donna tutto quello che lei gli chiede. Non importa se lei gli fa anche qualche torto quando lui non c'è. Basta che quando ritorna a casa lei non gli faccia mancare il rispetto. E rispetto è una parola dall'evidente doppio senso. Questa ballata ottiene un buon successo nel 1965, raggiunge buone posizioni nelle hit, ma rimane pur sempre un pezzo dedicato al pubblico nero del rhythm and blues. È dopo all'incirca un anno che Jerry Wexler, dirigente dell'Atlantic Records, pensa di proporla ad Aretha Franklin. Più l'ascoltavo e più quella canzone mi pareva avesse un potenziale enorme. Poteva diventare qualcosa di grande, una hit mondiale, ma soprattutto poteva finalmente dimostrare le doti canore di Aretha. Quando ne parlai a Otis, lui mi disse: «Vuoi darla alla ragazzina? E dagliela!» Mi fece ridere. Lui non aveva ancora 26 anni. La ragazzina, come la chiama Otis, sta ascoltando Respect. Otis Redding è un grande cantante, a lei piace moltissimo. Soprattutto ha scritto davvero delle belle canzoni, ma questa, se vogliono che lei la canti, deve diventare qualcosa di diverso. No, il significato della canzone deve cambiare. Sono io che come donna ti chiedo rispetto. Tu stai via e quando torni a casa hai tutto quello che vuoi. Io non ti chiedo niente, solo un po' di rispetto per me. A Otis sta bene. La versione femminile della sua canzone deve avere quel testo. È giusto che sia la donna a chiedere rispetto. Il giorno di San Valentino del 1967 è una data storica. Nella sede dell'Atlantic Records arrivano Aretha Franklin accompagnata dal marito e manager Ted White e dalle sorelle Emma e Caroline. Devono incidere il brano. Aretha ha in mente un paio di cosette. Una è creare una sorta di botta e risposta, un cliché solo inventato dal grandissimo Ray Charles, anche perché vuole dare un ruolo di rilievo alle sorelle. E poi sente che quella parola, respect, deve venire fuori bene, si deve sentire, ma non solo, la si deve quasi poter vedere. E con un lampo di genio che la rende veramente grande, decide di scandirne le lettere una a una facendone lo spelling. Il risultato è incredibile. Io cantavo e le mie sorelle rispondevano con il cliché "Suck it to me", ripetuto all'infinito. E poi facevo lo spelling della parola respect. E in finale ci misi anche la sigla TCB, Take Care of Business, perché nel nostro ambiente si diceva spesso. TCB, Take Care of Business, è un acronimo molto in voga negli anni 60, specialmente nella cultura afroamericana. La frase intera, TCB in a flash, occupati degli affari all'istante, diventa talmente famosa che Elvis Presley ne fa addirittura il suo motto. Aretha ci vede giusto. La canzone del grande Otis Redding che lei ha la fortuna di incontrare sulla sua strada, rivisitata dal suo genio, diventa immediatamente una hit. Ma non semplicemente una hit del rhythm and blues nero. Una hit mondiale che conquista tutto il mercato americano, in men che non si dica, anche quello britannico. Aretha diventa una star internazionale. Accidenti, Respect mi ha dato la fama mondiale e ha vinto anche tantissimi premi. Ben 2 Grammy Award nel 1968, per il miglior disco rhythm and blues e per la migliore performance vocale femminile, inserita al 5° posto nella Rolling Stones list delle 500 migliori canzoni del mondo. Respect è stata definita dalla Library of Congress di Washington patrimonio del National Recording Registry. Ma non solo. Quando il disco di Aretha Franklin esordisce nell'aprile del 1967, viene immediatamente considerato una stupenda e meravigliosa esemplificazione della filosofia femminista. E i movimenti antisegregazionisti di tutto il mondo lo eleggono a proprio inno. Alcuni anni dopo, il produttore Jerry Wexler rilascia una dichiarazione fortissima. Respect ebbe un'influenza globale con enormi ripercussioni sul movimento dei diritti civili e di uguaglianza sociale. Fu un vero e proprio appello alla dignità. Il successo di Respect è strabiliante e supera i confini del semplice boom discografico per sconfinare nell'ambito sociale, culturale, umanitario. Aretha Franklin diventa quasi involontariamente la portavoce di questi movimenti di liberazione. Una figura simbolo. The Queen of Soul. Così il famoso radio broadcaster Purvis Penn definisce Aretha Franklin. Fu Purvis ad affibbiarmi questo titolo. A quel tempo faceva il DJ e siccome io avevo molto successo e vendevo tantissimi dischi, lui mi definì la regina e Otis Redding fu chiamato il re. Benché giovanissima, a solo 25 anni, la grande interprete raggiunge una notorietà immensa, tanto da guadagnarsi perfino la copertina del Time Magazine. È il 28 giugno 1968 e Aretha è l'artista donna ad avere venduto il maggior numero di dischi in tutti gli Stati Uniti. Lo stesso Otis Redding, che pure si rende conto della grandissima performance di Aretha, in fondo si stupisce di questo successo strabiliante e ci scherza su al Festival Pop di Monterey nell'estate del 1967. Ora vi canterò un mio enorme successo, Respect, che mi è stato rubato da una ragazzina. Solo pochi mesi dopo, nel dicembre del 1967, Otis e tutta la sua band periscono in un terribile incidente aereo. Postuma esce una canzone che il grande cantante registra solo pochi giorni prima, destinata ad essere la sua più grande hit. I've had nothing to live for. It look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Il magnifico destino che la vita mette sulla strada di Aretha Franklin si consuma troppo presto. Otis Redding muore a soli 26 anni. Aretha sente di avere perduto qualcuno con il quale avrebbe potuto ripetere il successo di Respect, ma al tempo stesso ha la certezza che grazie a quella canzone, e un po' anche grazie a lei, il grande Otis resterà per sempre immortale. Ai magnifici destini di oggi vi stiamo raccontando la strepitosa escalation musicale della regina del soul, Aretha Franklin. Grazie al suo incontro con Otis Redding e alla sua interpretazione della canzone Respect, Aretha ottiene un successo stellare che la porta alla ribalta di tutto il mondo. Le procura una fama assoluta, oltre a diventare la canzone simbolo dei movimenti antisegregazionisti e femministi degli anni 60. Successo è proprio quello che nessuno si aspettava. Il rispetto di cui io parlavo nella canzone era quello che una donna chiede al suo uomo, ma questo significato fu allargato al concetto di rispetto civile, sociale. La canzone iniziò a vivere di vita propria, diventando un inno di liberazione. Io mi ci trovai in mezzo e devo dire che mi diede molta soddisfazione. The Queen of Soul è un personaggio ormai famosissimo. Aretha è felice di poter scegliere i pezzi che intende cantare. You Make Me Feel Like a Natural Woman, insieme a Chain of Fools e Baby I Love You, sono altrettanti successi strabilianti. Aretha Franklin è una grande star. La richiedono ovunque. E lei decide di trovare un vero e proprio gruppo con il quale cantare nei suoi spettacoli. È così che inizia una lunga collaborazione con le Sweet Inspirations, un gruppo femminile di cantanti gospel fondato da Emily C.C. Houston, madre di Whitney Houston e zia di Diane Warwick. È proprio per la Warwick che nel 1967 Burt Bacharach scrive una canzone di grandissimo successo, I Say a Little Prayer. Quasi per gioco, C.C. Houston propone ad Aretha di cantarla. C.C. mi disse, secondo me questa canzone è adatta anche a te. Proviamola. Bacharach è uno forte. Io all'inizio non volevo perché era di Dion, ma C.C. insisteva e così la facemmo. Fu un trionfo. Specialmente in Gran Bretagna, la versione di Aretha di I Say a Little Prayer ha un successo raramente raggiunto da un cantante straniero, rimanendo prima in classifica per lunghissimo tempo e confermando la popolarità della regina del soul anche fuori dal suo paese. Le sue incredibili hit si susseguono incessantemente. Con una naturale evoluzione che spesso si riscontra nei grandi cantanti che rimangono nelle hit per anni e anni, anche la carriera di Aretha Franklin raggiunge un suo apice, iniziando sul finire degli anni 70 una sorta di declino, forse causato anche dalla rottura con la casa discografica Atlantic Records e con scelte musicali meno popolari. Aretha ha un periodo di stasi, durante il quale sta riflettendo molto sul suo futuro. La sua sensazione è che le nuove generazioni non la conoscano bene, non abbastanza. Gli anni 80 sono diversi dagli anni 60 e 70. Ci vorrebbe qualcosa, qualcuno che la facesse conoscere nella maniera giusta al nuovo pubblico che si affaccia sul mercato. E il destino, o un magnifico destino, ci mette di nuovo lo zampino. Questa volta il suo volto è quello di due tipi decisamente svitati. La Queen of Soul incontra due mitici fratelli. Sono i Blues Brothers, il gruppo blues e soul fondato nel 1978 da Dan Aykroyd e John Belushi come parte di uno sketch musicale per il Saturday Night Live, programma comico e di varietà che dal 1975 allieta il sabato sera degli americani. Aykroyd e Belushi interpretano nella finzione dello sketch la parte di due fratelli, Elwood e Joliet Jake Blues, che guidano una band di musicisti molto accreditati. L'idea ha un successo tale che i due attori entrano nella parte e creano veramente la band, pubblicando addirittura un album, Briefcase Full of Blues. La band salta ai primi posti delle classifiche, tanto che The Blues Brothers diventano addirittura protagonisti di un film diretto da John Landis, entrato nel mito grazie a un cast incredibile e una colonna sonora che nel 2004 la BBC, dopo un lungo sondaggio, dichiara essere la più bella colonna sonora della storia del cinema. Nel film, i due fratelli, inconfondibili con i loro abiti neri e i Ray-Ban Wayfarer, nel disperato tentativo di salvare dalla chiusura l'orfanotrofio dove entrambi sono cresciuti, decidono di organizzare una reunion della loro band blues e di fare concerti in giro per i locali, cercando di racimolare così i quattrini necessari. La scusa di sceneggiatura è ottima per includere nel cast una serie di artisti notissimi, dal mitico Ray Charles al favoloso James Brown, fino al grande chitarrista Matt Murphy. Proprio per dissuadere Murphy dall'unirsi nuovamente alla scalcagnata band dei due fratelli fuori di testa, la moglie gli canta una delle più incredibili canzoni del film. Pensa a quello che stai cercando di farmi. Torniamo indietro nel tempo, a quando per te ero il massimo. Non ci vuole un medico o un alto quoziente di intelligenza per capire cosa stai per farmi. Io ho bisogno di te e tu hai bisogno di me, l'uno senza l'altra. Non siamo niente. Così canta la moglie di Matt Guitar Murphy nel tentativo di dissuaderlo dall'abbandonarla per seguire l'avventura dei fratelli blues. La voce è inconfondibile. È lei. È la grande Aretha Franklin. La cantante scrive la canzone Think nel 1968 insieme al marito Ted White e la include nel suo album Aretha Now. Ha un discreto seguito di pubblico, ma il singolo non spicca il volo. È nel 1980, ben 12 anni dopo, con il film The Blues Brothers, che il brano diventa un successo stellare. È proprio quando Aretha sta cercando qualcosa, un evento particolare, una ventata di novità che rivitalizzi la sua immagine e la sua carriera, che le arriva la proposta di partecipare a quella follia che sarà la produzione di The Blues Brothers. Aretha sta leggendo il copione. Il suo sarà un cameo, una partecipazione che dura il tempo di una canzone o poco più, ma potrebbe bastare a cambiare la situazione di stanchezza che sta attraversando la sua carriera. E poi non sarà da sola. La stessa performance la faranno più o meno con le stesse modalità il suo grande amico e collega Ray Charles, il grandissimo James Brown. Insomma, la regina del soul può considerarsi in buona compagnia. E poi, i due protagonisti, Belushi e Aykroyd, sono proprio due svitati come piacciono a lei. Il regista John Landis ricorda le problematiche di Aretha. Non era abituata a cantare in playback e per questioni tecniche di ripresa dovette farlo. Ma era imbranatissima e furono fatti tanti di quei chuck prima di beccare il labiale giusto. Il fatto è che questi cantanti di blues e di soul non cantano mai due volte allo stesso modo. Ti veniva voglia di dirgli, ma fa attenzione, no? Ma la realtà è che non capivi proprio cosa stessero dicendo con quella bocca. Il grande successo del film The Blues Brothers porta una rinnovata popolarità ad Aretha Franklin. L'incontro con la band più pazza della storia è un magnifico destino per lei, che crea il giusto impulso per una seconda stagione della sua carriera. Aretha firma un contratto con la casa discografica Arista Records, fondata solo pochi anni prima da Clive Davis, ex presidente della Columbia Records. Questo periodo della vita di Aretha, così ricco di novità, viene purtroppo funestato da un grave lutto. Suo padre, il reverendo Clarence Franklin, attivista per la lotta antisegregazionista, rimane vittima di un attentato, durante il quale viene raggiunto da due colpi di arma da fuoco e resta per ben 5 anni in coma prima di morire. Per Aretha è un momento terribile, ma lei sa quanto suo padre abbia fatto per aiutarla nella sua carriera, quanto abbia fortemente voluto che lei diventasse la cantante di successo che è, e dopo un breve periodo di lutto decide di buttarsi nuovamente a capofitto nel lavoro. E il suo pubblico la premia. Lei è sempre la regina del soul. I magnifici destini vi racconta tutti i giorni le vite incredibili dei personaggi più grandi della musica mondiale e quegli incontri che ne influenzano in maniera determinante l'evoluzione e la carriera. Nella puntata di oggi vi stiamo raccontando la storia della grandissima cantante Aretha Franklin, The Queen of Soul, del suo incontro con Otis Redding, autore del suo successo più strabiliante, Respect, che diviene l'inno dei movimenti di liberazione dei neri e che fa decollare la sua carriera sul finire degli anni 60. Altrettanto determinante negli anni 80 è l'incontro con la band dei Blues Brothers, che chiedono ad Aretha di partecipare con un cameo al loro film cult. La grandissima interprete vive così una nuova e fortunata stagione di successi, anche se un fatto molto increscioso blocca notevolmente le sue possibilità di muoversi per il paese e realizzare tour molto lunghi. Nel 1983 ebbi un problema con un aereo. Tornando da Atlanta avevo fretta e non c'erano posti sugli aerei di linea, così accettai di viaggiare con un piccolo bimotore. Ne uscii assolutamente illesa, ma la paura fu tale che quando fu tutto finito e uscii dal velivolo all'aeroporto Metropolitan, capii perché il Papa, tutte le volte che arriva in un paese e tocca terra, si sdraia a baciarla. Aretha esce fisicamente illesa dall'incidente, ma molto provata nello spirito. Non salirà mai più su un aereo e questo naturalmente frena un po' le sue potenzialità. Nessuna tournée all'estero, concerti solo nelle città raggiungibili con la sua fantastica limousine che diventa il suo unico mezzo di locomozione. Rifiuta perfino un invito personale della regina Elisabetta. Ma nonostante questo, il grande affetto che il pubblico di tutto il mondo le riserva rimane immutato nel tempo. Aretha Franklin è un'artista meravigliosa, ma non solo. È anche una donna dai forti sentimenti. Si è sposata 2 volte ed è madre di ben 4 figli. La sua personalità artistica e umana è di esempio per una moltitudine di artisti che vedono in lei un modello da seguire per quanto possibile, viste le sue doti canore difficili da replicare e la sua capacità così unica di toccare l'anima di chi l'ascolta. Freddie Mercury è un suo fan accanitissimo, come viene raccontato nella biografia scritta dal suo assistente personale, Peter Freestone. Ma sono soprattutto le artiste donne ad amarla e a ispirarsi a lei. Alicia Keys, Beyoncé, Anastasia, Jennifer Hudson, oltre ad alcune delle nostre interpreti più conosciute come Giorgia, Alessandra Amoroso ed Elisa, che citano Aretha come loro principale ispirazione ed eseguono cover dei suoi brani più famosi. Ma fra tutte, Aretha ha da sempre un legame particolare con una giovane interprete assolutamente eccezionale. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride. to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Whitney Houston, una delle più incredibili voci di tutti i tempi, interprete di incredibile talento e altrettanto sfortunata nella vita privata, vulnerabile e mite, conosce Aretha Franklin da sempre. Sua mamma, Emily C.C. Houston, è la fondatrice delle Sweet Inspirations, gruppo femminile gospel che collabora per anni e anni con la regina del soul. Sissy è una sua amica personale, tanto che Whitney chiama Aretha Zia Ree. Lei è semplicemente la regina del soul. Non riesco a descrivere cosa provo per lei, perché è qualcosa di così profondo dentro di me. È merito suo se io canto. Chi si sarebbe mai immaginato il successo monumentale che avrebbe avuto Whitney? Io so solo che quando la sentii cantare per la prima volta, dissi: accidenti se sa cantare, Nippy. Nippy era il nomignolo con cui la chiamavamo in famiglia. Era una lottatrice. Sì, le aveva insegnato come muoversi nel nostro ambiente. E lei aveva una meravigliosa strada davanti a sé. Nippy e Zia Ree realizzano insieme un grande successo, il sogno di Whitney Houston, che definisce Aretha in ogni occasione la sua mentore. La loro unica collaborazione è una canzone dove le due magnifiche voci si intersecano in un duetto eccezionale. Abusi di alcol e droghe, rapporti sentimentali falliti e probabilmente un male di vivere insostenibile sono tristi compagni di vita di Whitney Houston, che conclude la sua esistenza tormentata l'11 febbraio 2012 in un albergo di Beverly Hills, dove viene trovata morta nella vasca da bagno. Ha solo 48 anni. Aretha Franklin racconta come vive quel terribile momento. Stavo guardando la televisione. Quando ho sentito la notizia della morte di Whitney, ho fatto un salto sul letto. Non ci potevo credere. Ripetevo solamente: non può essere, non può essere. 5 giorni dopo la terribile disgrazia, al Radio City Music Hall di New York viene organizzato uno spettacolo in tributo di Whitney Houston. C'è un pubblico molto numeroso ed emozionato che siepe al teatro. Aretha è emozionatissima. Ha deciso di cantare in onore di Nippy quella canzone che lei per prima aveva inciso nel 1977, ma che è Whitney a trasformare in un grande successo mondiale. The Greatest Love of All. Purtroppo, quando una persona ottiene in così breve tempo il successo straordinario che ha ottenuto Nippy, è davvero difficile conviverci. E poi hai intorno a te persone che ti sembrano amici e invece non lo sono. Si può essere molto soli quando si ha tanto successo e ci si può perdere facilmente. Forse la grandezza di un personaggio come Aretha Franklin risiede anche in questo. Essere riuscita a non perdersi mai, nonostante un successo la cui portata molto spesso fa perdere il contatto con la realtà. Un esempio per tutti è la storia di un cappello grigio con un enorme fiocco che Aretha sceglie di indossare in un'occasione molto importante. È il 20 gennaio 2009, siamo a Washington, alla cerimonia di insediamento del presidente degli Stati Uniti d'America Barack Obama, in diretta TV mondiale e davanti a più di 2 milioni di persone. Tutti stanno aspettando lei, la regina. Aretha Franklin arriva tutta vestita di grigio, molto elegante, e indossa questo cappello decisamente stravagante. Quel cappello è talmente particolare, e soprattutto lo è chi lo indossa, che viene dichiarato patrimonio degli Stati Uniti d'America. Aretha lo regala al Museo Smithsonian durante una cerimonia appositamente organizzata. Ci sarebbe davvero di che montarsi la testa, tanto per rimanere in tema di cappelli. Ma non Aretha, che racconta divertita gli sviluppi della faccenda. Quel cappello ormai vive di vita propria. Figuratevi che ha persino un suo sito su internet. È un personaggio. Una personalità così grande come quella di Aretha Franklin, un'energia incontenibile nonostante anche qualche problema di salute, rendono la regina del soul un mito vivente. La sua performance ai Grammy del 1998 è tuttora considerata la migliore esibizione di tutti i tempi nella storia del premio. Aretha sostituisce all'ultimo minuto Luciano Pavarotti, colpito da un malore, studiando in poche ore il suo cavallo di battaglia, il Vincerò della Turandot di Puccini, e soprattutto cantando in italiano e nella tonalità del tenore. Un'interpretazione da pelle d'oca, un esempio della sua grandezza, un'incomparabile dimostrazione della sua personalità, sempre e in ogni occasione vincente.